9 in punto, la versione di Oscar. Oh, cari ascoltatori, buon martedì 10 di gennaio di questo 2012, leggete anche sulle cronache di oggi non solo record temporali di spread a 2530 e oltre punti, leggete le cronache dell'anticipo del patto rinnovato del più forte rigore europeo con l'anticipo dell'incontro tra Merkel e Sarkozy ieri, e mi pare di capire dalle cronache che leggo sulla stampa italiana internazionale, in realtà senza grandi speranze per la richiesta di diluire il rigore correggendolo per il ciclo, che avevamo spiegato era una delle richieste italiane al tavolo tecnico di adozione concreta delle misure prese l'8 dicembre, posizione che è stata annunciata come condivisa tra Italia e Francia, e quindi iniziamo con i dorsi anche oggi. Però oggi facciamo una puntata un po' particolare, perché in realtà i protagonisti della puntata dovreste essere voi, se accettate questo gioco, questa impostazione che abbiamo deciso di dare, che ho deciso di dare insomma Alessandro Marco Tulli ragionando ieri, perché ci siamo grattati la testa e ci siamo detti: ma non è che per caso le risposte, le strategie diverse intorno a come fronteggiare un debito pubblico così ingente come quello accumulato dall'Italia, 120 punti di PIL, e che crescerà tanto più quanto peggio il PIL andrà naturalmente in questo 2012, non è che per caso dipendano non solo da normali contrasti politici, da visioni politiche generali del mondo, ma anche dalla definizione di che cosa sia il debito pubblico secondo le scuole economiche, e ci siamo risposti subito: certo che sì, perché non ce ne siamo mai ricordati in tutti questi anni in cui dobbiamo ogni giorno, quasi, tranne rare digressioni, stare su questo terreno un po' ossessivo del debito pubblico, delle tasse, della spesa pubblica eccessiva. E allora ci siamo detti: facciamo una specie di gioco nella trasmissione di domani mattina, un gioco intellettuale che però, se gli ascoltatori dovessero condividere, ci consentirebbe di capire loro, tra coloro che sono in ascolto, a quale di queste quattro definizioni aderiscono. Abbiamo scelte quattro naturalmente perché, come tutte le sintesi, bisogna essere un po' paradossalmente abbreviati e concisi a costo di essere anche tecnicamente un po' imprecisi, ma come vedrete sono quattro definizioni che non c'entrano nulla su come la penso io dirò a quale di queste aderisco, però mi sono sforzato ovviamente di tirare giù dalla letteratura e dalla pubblicistica le quattro che vanno per la maggiore, ma che sono tra di loro di appartenenza molto diversa. Ma se voi accettate questa impostazione, quindi iniziate a telefonare da subito, se ascoltate intanto, sarà una trasmissione che ci consente di capire come, da premesse diverse, come sono quelle delle scuole economiche e delle scuole politiche, discendono poi obbligatoriamente conseguenze diverse. Quindi ciò che a volte sembra cacofonia politica oppure contrasto tra un'impostazione e l'altra, in realtà dipende da come intellettualmente noi concepiamo che sia il debito pubblico e lo Stato. Allora, iniziamo a dare queste quattro definizioni, così io me le metto immediatamente alle spalle. Poi, nel frattempo, prima di vedere se voi iniziate a telefonare o meno, spero di sì, perché altrimenti il monologo di un'ora sarebbe un po' pesante come trasmissione, poi diciamo anche qualche parola intorno a come si è formato questo debito pubblico, e tornerò anche un secondo sulla disaggregazione rispetto al debito pubblico della maniera di rispondergli delle manovre del governo Berlusconi e di questo governo. Però torniamo alle quattro definizioni. Allora, Diciamo che c'è una prima idea intorno al debito pubblico, chiamiamola l'idea di Abba Lerner. Abba Lerner è stato un geniale economista che dagli anni 30 agli anni 80 ha anticipato molte delle tesi che ad altri economisti sono valsi il Nobel, e è un economista solidissimamente keynesiano, quindi come vedete inizio con una definizione che non mi appartiene, ma un keynesiano di quelli straordinari, insomma, nel senso che passa addirittura, è noto come il Milton Friedman dei keynesiani, perché tanto difendeva il dirigismo e lo statalismo nell'allocazione delle risorse iniziali, per così dire. Oggi la definiremmo una posizione a tutela dell'eguaglianza delle opportunità, quanto invece era rigoroso nel difendere l'efficienza del mercato del commercio internazionale, il più possibile liberi da vincoli, perché lui diceva l'efficienza si può realizzare solo attraverso il libero mercato e commercio internazionale libera, perché solo così si arriva all'equiparazione tra prezzo e costo marginale in un sistema che si definirebbe tecnicamente a quel punto di equilibrio perfetto paretiano. Gli equilibri perfetti paretiani non esistono, ma servono e servivano molto in quegli anni come modelli agli economisti per confrontarsi. Però un solido keynesiano, Abba Lerner. E per Lerner che cos'è il debito pubblico? Lerner, Abba Lerner, non Gad Lerner, non ci confondiamo. Allora, nella definizione di Abba Lerner, il debito pubblico è in buona misura un falso problema, perché è ciò che noi dobbiamo a noi stessi. E, tra l'altro, domenica scorsa lo avete appena trovato riscritto esattamente in questi termini, anche senza citare Abba Lerner, su Repubblica, in un articolo firmato da Guido Carandini e Paolo Leon. E in realtà lo scrive e lo ripete incessantemente da due anni a questa parte Paul Krugman sul New York Times. Allora, prima definizione: debito pubblico di Abba Lerner, un falso problema, lo dobbiamo a noi stessi. Seconda definizione, ancora keynesiana. Quella di Paul Samuelson. Paul Samuelson ci lavora sopra, tra i tanti scritti geniali che ha fatto, ci lavora alla fine degli anni 50, nel 1958, e Paul Samuelson dice, dando una risposta agli anti-keynesiani, che vediamo sono la risposta poi 3 e 4, dice: ma loro si preoccupano tanto se il debito pubblico sia a carico dei contribuenti attuali, a carico dei contribuenti futuri, ma sono tutte fregnacce. In realtà l'unica cosa che conta di un debito pubblico, dice Paul Samuelson, che prende pari pari il ragionamento che segue adesso dalla teoria generale di Keynes, è l'unica cosa che conta di un debito pubblico è che se il regolatore pubblico, il regolatore monetario, se il regolatore monetario è indipendente, oppure il ministro del tesoro, se è lui che fissa i tassi di interesse, ecco, se l'unica cosa che conta è che se il regolatore pubblico riesce a mantenere i tassi di interesse pagati dai titoli del debito pubblico inferiore al tasso di crescita nominale del PIL, se questi tassi sono, ripeto, più bassi alla somma di crescita reale e inflazione del PIL, allora inutile avere preoccupazioni, perché qualunque sia lo stock di debito, qualunque sia la parte annuale di debito in aggiunta, cioè il deficit, esso resta perfettamente finanziabile, e chi dice il contrario ce l'ha con lo Stato, ma per altre ragioni. Però il debito pubblico è sostenibile, quindi Abba Lerner dice è sostenibile perché è debito che noi dobbiamo a noi stessi. Paul Samuelson, altra versione keynesiana, dice no, è sostenibile a seconda del tasso di interesse che paga, basta che paghi un tasso di interesse più basso della crescita nominale, è eternamente sostenibile e può anche molto aumentare. Veniamo alle altre due definizioni, che sono quelle della scuola alla quale mi riconosco io. Terza definizione, chiamiamola quella di public choice, quindi James Buchanan per intenderci. Allora, questa terza definizione rispetto alla prima, Lerner, il debito lo abbiamo noi stessi, alla seconda, Samuelson, è eternamente sostenibile, dipende solo dal tasso di interesse, dice neanche per idea. Il debito pubblico innanzitutto è profondamente ingiusto, perché è una passività a carico delle future generazioni di lavoratori e contribuenti. Ed è tanto più negativa questa passività perché, primo, disincentiva fortissimamente la crescita quanto più è alto il debito pubblico, secondo, quanto più è alto è tanto più distorcente per l'equità intergenerazionale, cioè spalma sul futuro, sui lavoratori e sui contribuenti futuri l'onere di ripagarlo. L'idea mia e di chi la pensa come me è esattamente questa, la terza, James Buchanan. Poi ce n'è una quarta idea, quella dell'equivalenza ricardiana in termini tecnici, che questa è stata approfondita, lanciata, la si lega all'idea di un altro geniale economista offertista, Robert Barro, ed è anche questa in realtà una definizione interna alla scuola liberista. E però rispetto alla definizione precedente, quella di James Buchanan, dice no, un momento, il debito pubblico non è solo una passività inaccettabile perché è a carico delle future generazioni, perché come ci ha dimostrato Franco Modigliani con la teoria del ciclo del risparmio vitale, che a Franco Modigliani, che insegnava al MIT, valse il Nobel, in realtà il debito pubblico tanto più è alto ed è tanto più distorcente anche per i contribuenti e i lavoratori di oggi, perché i contribuenti e i lavoratori di oggi, come sanno perfettamente che il politico affronterà il debito pubblico soprattutto inevitabilmente con le tasse e non con i tagli alla spesa, già adesso inizia a introiettare nel proprio comportamento, il lavoratore attuale, il risparmiatore attuale, inizia a introiettare nel suo comportamento di risparmio e di consumo il fatto che inevitabilmente le tasse saliranno. E quindi, in altre parole, Robert Barro, con questa quarta definizione, rafforza gli effetti anticrescita a breve dell'ingente debito pubblico, perché lo spiazzamento delle risorse finanziarie necessarie a ripagarlo si attua da subito, e come si attua da subito? Innanzitutto attraverso, come vediamo, il circuito del credito delle banche, visto che le banche sono gli attori primari delle aste dei titoli del debito pubblico, e a famiglie e a imprese, come stiamo toccando con mano esattamente in queste settimane, in questi mesi, la restrizione di credito delle banche arriva subito. E arriva subito quindi il freno alla crescita, quando anche le maggiori imposte verranno dopo. Allora, perché queste quattro idee, ripeto, Abba Lerner, keynesiano, che dice debito pubblico no problem, lo dobbiamo a noi stessi, Samuelson no problem, basta che il tasso a cui lo paghiamo è più basso la crescita nominale, terza definizione, quella di James Buchanan, no, grande problem, perché è inaccettabile, perché distorce a carico delle future generazioni di lavoratori l'obbligo di ripagarlo. Quarta definizione, quella di Robert Barro, dice non solo sul futuro, ma già sul presente, quanto più è grande, distorce, perché la gente introietta e gli arriva subito attraverso le banche, che tanto lo si ripagherà con maggiori oneri, quindi è anticrescita ed è distorcente. Allora, se appartenete alle definizioni numero 1, quella di Abba Lerner, quella di Paul Krugman, quella di Carandini e Paolo Leon, inevitabilmente è molto probabile che voi siate un keynesiano del tipo comunitarista, collettivista. In Europa bisogna dire collettivista, perché sono soprattutto gli ex socialisti e comunisti che abbracciano questa versione di Keynes. In Europa sono più i comunitaristi, perché i socialisti e comunisti, tranne rare eccezioni, non c'erano neanche in gioventù. Ma in realtà quello che conta è che la debolezza della posizione Abba Lerner è che essa era valida fino a che non c'era la globalizzazione finanziaria, cioè quando Abba Lerner scriveva, ma oggi a fare gli spread e differenziare il premio al rischio del debito pubblico sono esattamente la componente estera che è nelle mani dei soggetti esteri di ciascun debito pubblico. Quindi in realtà chi sostiene la prima tesi, che cosa indica? Indica come modello il Giappone, che è quello che ha il 213% del debito pubblico, quindi è tantissimo più elevato del nostro, però non soffre niente perché è tutto in mano di investitori giapponesi, e quindi il debito lo devono a loro stessi. Peccato però che questa tesi dimentichi di dire che il Giappone non avrà alti premi al rischio, ma da 15 anni in stagflazione, è seduto sui talloni, quindi a me non sembra un grande esempio. Però se appartenete a questa prima scuola, è ovvio che voi dite per ripagarlo lo deve ripagare coloro di cui è il debito, cioè tutti noi, ed è giusto a quel punto che lo ripaghi i più ricchi. Ecco da dove nasce la patrimoniale one off, quella una per tutti, che si paga con una grande botta a chi ha di più per abbattere di un po' di punti il debito pubblico, che comunque è sostenibile, basta che non ci sia una quota estera rilevante, anzi loro scrivono aver inventato il ricorso ai mercati finanziari estero è la grande truffa, perché così si danno i soldi alle banche che ci fanno agio, basta darlo agli italiani, gli italiani se lo comprano, siano obbligati a ricomprarlo, facciamo una bella manovra di conversione forzosa, ma la imponiamo soprattutto ai ricchi. Ecco da dove nasce la tesi della patrimoniale. Se invece appartenete alla scuola Paul Samuelson, che anche lui, che dice ma non è un grande problema, il problema sono i soliti tassi di interesse, la pensate in altre parole come Giuliano Ferrara, Se la pensate come Giuliano Ferrara, quindi come vedete non è questione di sinistra o destra in Italia, è questione di punti di riferimento intellettuali. Se la pensate come Giuliano Ferrara, volete un banchiere centrale, visto che oggi gli fissa l'Uitas, l'interesse ha servito alla politica. Perché dite la politica è lei che stabilisce qual è il tasso di interesse. Naturalmente, come si vede, non è la politica, perché la politica può stabilire anche un tasso di interesse negativo, tranne il fatto che poi è il mercato che stabilisce che a quel tasso di interesse lui bot non se le compra, perché ogni ne paghi 500-600 punti base in più, oppure quelli ti restano in tasca e tu vai in semi default. Però l'essenziale è capirsi, siete keynesiani statalisti, per così dire, perché credete che il tasso di interesse lo fa solo il regolatore pubblico. Se appartenete alla terza o quarta scuola, invece, cioè a quella, per capirci, in sintesi, James Buchanan o Robert Barrow, allora dite no, tutto questo debito pubblico è ingiustissimo perché ci fa crescere meno e perché spiazza risparmio attuale e risparmio futuro. Ergo, per curarlo, inutile pensare che ce lo dobbiamo comprare solo noi, perché tanto non funzionano così i mercati oggi. Bisogna tener buona la componente che ne detiene la parte estera. Terzo, bisogna che lo ripaghi innanzitutto chi lo ha fatto, perché il debito non l'ho fatto io, e lo ripaga innanzitutto lo Stato finché ha garanzie. Quindi ci fai il sacrosanto favore di abbattere attraverso dismissioni pubbliche una bella quota, quella più alta che può, di debito pubblico. Uno. Due, ci fa il sacrosanto favore di avere la più bassa propensione a formare nuovo debito, quindi deficit zero, tagliando spesa pubblica. Ecco da dove nascono le diverse risposte e le diverse scuole, per così dire, di terapia politica al debito pubblico e anche di manovre internazionali per fronteggiare l'eurodebito. Io ve lo ricordo, per capirci, Abba Lerner 1, Paul Samuelson 2, 3, James Buchanan 4, Robert Barrow. Dite la vostra, iniziate a telefonare. E a me, prima di andare in pubblicità, vorrei solo dirvi che è anche interessante considerare da questo punto di vista come la politica italiana sia assai meno diversificata di quello che appare, anche se litiga molto, è molto pronta, prima di questo governo dei tecnici, che rappresenta una specie di parentesi della litigiosità. È un grande gesuita, ha detto ieri Alessandra Ghisleri a proposito del presidente del Consiglio Monti, che andava da Fazio. Però quello che ai miei occhi rileva è che in realtà l'atteggiamento di fronte a come si fronteggia il debito e in realtà a me pare un atteggiamento di totale continuità tra sinistra, destra e governo dei tecnici. Che cosa voglio dire? Qualche numeretto, poi andiamo in pubblicità e passo la parola a voi. Allora, vediamo un pochino di fare la somma degli quattro interventi di correzione che ci sono stati alla finanza pubblica nel 2011. E se facciamo la somma di questi interventi, queste sono cifre elaborate dagli amici di Eutecne, quindi lo dico per dare loro il giusto, perché ci hanno faticato loro, però mi sono sembrate molto utili. Allora, se facciamo la somma di tutte le manovre, la correzione che abbiamo è dei saldi, la correzione netta dei saldi è di 48,3 miliardi di euro sul 2012, di 75,6 miliardi nel 2013, di 81,2 miliardi a regime nel 2014. Se andiamo a scomporre questo 81 miliardi a regime del 2014 a chi si deve tra governo Berlusconi e governo dei tecnici, abbiamo che l'83% dei saldi migliorati nel triennio si deve al governo Berlusconi, il 73%, il 26,8% al governo Monti. Come è composta tra entrate e diminuzione delle spese questa correzione di 81 miliardi nel 2014, che per il 73% si deve ai governi Berlusconi? Di questi 81 complessivi a regime, il 62,6% dei migliori saldi, cioè circa 51 miliardi sugli 81, si deve a incrementi di entrate, il 62,6%. 30 miliardi sono minori spese, cioè il 37,3%. Però. Le minori spese, come sempre capita nelle decisioni politiche, sono naturalmente spalmate, ma negli anni a venire. quando magari si può farne a meno, le minori spese. Nel breve, la correzione per il 2012 è per l'80% realizzata con incrementi di spesa. Per l'80%. E quindi noi abbiamo che la pressione fiscale 2012, che solo a fine luglio del 2011 si stimava al 42,6%, che salirà al 45,1%, dice il governo Monti, e il governo Monti fa questa previsione con un calo del PIL che è solo di un terzo rispetto a quello che stima Confindustria, quindi andremo ben oltre questo 45,1%, la pressione fiscale sarà al 45,7% nel 2013 e oltre il 45% anche nel 2014. Quanto di questa pressione fiscale aumentata in questi tre anni si deve al governo Berlusconi e quanto si deve al governo Monti? Ecco, la pressione fiscale aggiuntiva dell'aumento 2012, cioè l'80% del raggiungimento del miglior saldo nel 2012, questo aumento di pressione fiscale si deve per il 55% al governo Berlusconi Tremonti, per il 45% al governo Monti. Quindi è maggioritaria l'aumento fiscale stabilito dal governo uscente. Poi, se si va avanti dal 2013 al 2014, il più dell'aggravio fiscale si deve ancora di più al governo Berlusconi, perché nel 2013 il 73% dell'aggravio fiscale si deve al governo Berlusconi e il 27% a Monti, e nel 2014 il 76,6% si deve al governo Berlusconi, il 23,3% a Monti. Conclusione. Come si vede dai numeri, non perché lo dico io, qui non c'entra niente l'opinione politica, l'impostazione di come fronteggiare il debito pubblico italiano, l'impostazione dai centrodestri ai tecnici è accrescitiva, sì, ma è del tutto analoga. Cioè quella di portarci dritti all'emergenza fiscale, perché la lotta ai migliori saldi per stare in Europa, qualunque cosa poi avvenga della credibilità europea, problema a parte, la stiamo facendo tutta o quasi tutta, il più, l'80% nel 2012, sul versante delle tasse. E questa decisione poi spiega perché l'Agenzia delle Entrate si dà molto da fare, perché non è che l'ha deciso l'Agenzia delle Entrate e befera, da questo punto di vista. Dei tagli alla spesa pubblica, che è metà del PIL, e oltre, di abbattere il debito attraverso cessioni di mattoni, società pubblica, la politica continua a fregarsene. E perché? La prima risposta spontanea è quella che potrebbe avere ragione Adolf Wagner, quello famoso della legge dell'espansione permanente dell'attività pubblica, dell'intermediazione pubblica e della resistenza permanente a ciò che limita l'intermediazione pubblica. In realtà non è così, dipende da quale sia una di quelle quattro definizioni di debito pubblico che ho tentato di ricordare all'inizio. Sempre che siate stati al gioco, noi adesso andiamo in pubblicità e per un po', perdonate se è un po' anomala questa impostazione, adesso la parola passa a voi. Pubblicità. Eccoci tornati qua in studio per questa seconda parte della trasmissione e a questo punto iniziamo a sentire un pochino come la pensate voi. Cominciamo con Luigi da Verona, prego Luigi. Buongiorno Cardellino, io ho già chiamato tempo fa facendoti complimenti, questa volta però ti devo un po' tirare orecchie. Luigi, ti devo proporre una cosa, prova a richiamare perché non si sente assolutamente niente, mi dispiace che prima forse avrebbero dovuto dirtelo, ma altrimenti stentiamo troppo. Passiamo a Ferruccio da Milano, Luigi riprova, Ferruccio Milano, prego. Buongiorno. Eccoci. Ma io credo che il problema posto in questo modo, almeno per la situazione italiana, sia comunque posto male. In Italia abbiamo i gioiellieri che dalle loro dichiarazioni mediamente guadagnano meno di un bidello. Abbiamo i datori di lavoro che mediamente guadagnano meno dei loro dipendenti, secondo le loro dichiarazioni dei redditi. Abbiamo questo blitz di Cortina, per quanto così giornalistico anche, che abbiamo visto che i ristoratori, girata la voce che c'erano i controlli, hanno un incasso quattro volte quello che avevano l'anno scorso. Cioè siamo nel paese dell'evasione fiscale di chi se lo può permettere, perché i lavoratori dipendenti e i pensionati, quelli non se lo possono permettere, quindi non è che sono moralmente migliori, è che non ce la possono fare. Il problema è questo, che il livello dell'evasione è tale che se per assurdo per otto anni non ci fosse più l'evasione fiscale, noi avremmo ripianato il debito. Il che vuol dire che il debito che dovrebbe esserci se non ci fosse questo contributo enorme, aggiuntivo dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, sarebbe tre volte quello che c'è adesso. Se non si arriva a togliere le sanguisughe che evadono alla grande, noi potremmo fare qualunque cosa, potremmo decidere di togliere tutti i servizi che lo Stato dà e avremmo comunque il debito pubblico. Va bene Ferruccio, la tua è la tesi maggioritaria. Io riconosco, mi metto in ginocchio di fronte ai numeri e io non sarò mai d'accordo con questa tesi, perché non c'entra niente. Se mi permettete, e lo dico col più pieno rispetto, io che sono autonomo, ho la partita IVA, ho due società, verso la legittima, sacrosanta, più che comprensibile, motivatissima arrabbiatura di tutti i lavoratori a reddito dipendente soggetti senza scampo al sostituto d'imposta. Il problema è che la divisione che lo Stato abilmente fomenta attraverso i numeri e le stime dell'evasione fiscale, sono tutte stime, perché lei dice 120 miliardi, le deduciamo da una formuletta, da un algoritmo che l'Istat da qualche anno a questa parte applica, che non è condiviso dalle altre autorità statistiche e non c'entra niente col professor Giovannini che oggi guida l'Istat. La verità è che nasometricamente una stima che ogni anno dice che è uguale alla percentuale dell'economia in nero vale niente, se permettete, lo dico proprio tecnicamente, quindi io mi auguro che il professor Giovannini rimetta mano a quella roba. Ma al di là di questo, che l'evasione è molto alta, è un po' meno alta, diciamo molto meno alta di quanto non sia anche negli altri paesi avanzati, ma questo tendiamo tutti a dimenticarcelo, ce lo ha ricordato ieri Alessandro Penati su Repubblica. Il problema però, ripeto, non è quello di dividerci in nome della lotta all'evasione, dicendo basta che gli evasori paghino e il debito pubblico non c'è più. Il problema è che cosa sia un debito pubblico superiore al 50% del PIL, che effetti economici abbia. Invece, in nome di questa sacra lotta che voi combattete e che io avverso invece, e che mi spingerà a forme organizzate di disobbedienza civile pubblica, torneremo sul tema perché molti mi hanno scritto dopo ieri, pubblica, non c'è dubbio, io credo che ci porti tutti a dimenticare le responsabilità criminali dei politici che hanno accumulato un debito pubblico di queste proporzioni, che ha esso prodotto, non l'evasione fiscale, esso ha prodotto che da 15 anni non cresciamo, esso ha prodotto una spesa pubblica intollerabile per bassissima qualità, nepotismo intollerabile, interessi che sono quelli di coloro che pro tempore amministrano lo Stato e la pubblica amministrazione, non c'entrano nulla con il sedicente interesse generale, che lo capisco, invece fa scaldare i tanto animati e incazzati Ferrucci di tutta Italia che dicono no, non ci rompere le palle con quanto pesa il debito pubblico, il problema è fai pagare chi non paga mentre io pago, e io lo capisco, quindi per me la lotta all'evasione va condotta con durezza, basta che non ci faccia dimenticare quello che la politica ci ammannisce dicendo che il debito pubblico è un non problema numero uno, basta che ce l'abbiamo tutto noi, quindi pagate la patrimoniale e comprateveli obbligatoriamente i titoli, perché ci potremmo arrivare, guardate, ci potremmo arrivare. Oppure ci dice ma no, la colpa è solo di chi decide che i tassi di interesse sono troppo alti, lo spread internazionale, perché altrimenti il debito pubblico è comunque sostenibile. Ecco, la politica la pensa così. Angelo da Milano come la pensa? Buongiorno Giannino. Io non sono molto d'accordo con Ferruccio, nel senso che le cose vanno pensate integrate, però il mio ragionamento è molto semplice, me l'hanno insegnato i miei genitori, i miei nonni. Se guadagno 100 non posso spendere 150, se no dopo un po' finisco anche di respirare, per cui il debito va assolutamente tutto sotto controllo, cioè noi abbiamo vissuto fino ad oggi sopra le nostre possibilità, il debito è una cosa che è al di fuori del DNA degli italiani, perché gli italiani sono abituati a risparmiare, è una cosa che non è dovuta a noi, è dovuta a delle dinamiche esterne, per cui il ragionamento è quello della serva, mi scusi se riduco, no, prego. Enorme, bello, bellissimo, quello che vuole, ma è ridotto al costo della serva, certamente. Io porto a casa 100, se spendo 150, signori, dopo tre mesi non potrò più fare niente, non posso più assolutamente muovermi, e la stessa cosa vale nelle dinamiche di piccole dimensioni come quelle di grandi dimensioni. Se io dovessi gestire la mia società come i nostri politici hanno gestito il debito, la società italiana, no, quello che l'azienda Italia produceva, beh, io sarei già fallito da... Angelo, il problema è che lei sarebbe fallito, ma lo Stato, la bellezza del debito pubblico è che il debito pubblico si fa dicendo che gli Stati non possono fallire. È falso, perché ci sono centinaia di esempi di fallimenti del sovrani. La Francia tra il 300 e l'800 è fallita 5 volte, la Spagna 6 volte, per essere chiari. I primi fallimenti pilotati sono stati, ohimè, quelli della Repubblica Genovese alla fine del XIV secolo, ed è quasi un modello per gli eurobonds, è il fallimento genovese del XIV secolo, che ancora oggi si insegna agli studenti, nel senso che il debito pubblico è nato, quello moderno, quello da sempre c'è stato, dai, qualunque impero avesse moneta c'era il debito pubblico, ma quello moderno con le tecniche contabili attuariali, e quello è nato proprio nelle repubbliche marinare e nei comuni italiani, cioè è nato a Firenze, a Genova, a Milano, a Venezia tra il XII e il XIII secolo, per essere chiari. È a Venezia che il maggior consiglio e il Senato nel 1262, per esempio, introducono una tassa ad hoc, si chiamava la legatio pecunia, che serve esattamente a fronteggiare gli interessi del debito pubblico, e queste tasse ad hoc, quelle che in inglese si chiamano earmarked taxes, questa roba la inventiamo noi, e sono una modalità, per esempio, attraverso cui l'impero britannico da sempre continua il finanziamento del debito pubblico, e poiché decide il Parlamento britannico tasse ad hoc sugli interessi ad hoc per ogni titolo di debito pubblico, questa è una delle ragioni storiche per cui i yield dei titoli di debito pubblico britannico ancora oggi hanno la vita lunga media più elevata al mondo, 14 anni, mentre è doppia rispetto alla durata media dei titoli di debito pubblico italiano, appunto perché si stabiliscono tasse ad hoc per il servizio di ogni tipo di debito pubblico emesso, e questa è un'altra tecnica. Insomma, la storia ci insegna, la storia, che non è vero che gli stati si comportano mai come famiglie, perché gli stati pretendono per sé l'eccezionalità, hanno il potere di tassare gli stati, per questo il politico vi dirà sempre che è colpa di un altro se lui fa deficit ed emette altro debito pubblico, e per questo ci vogliono regole rigide, perché quando si arriva oltre il 50% e i politici continuano a dire, scomodando Keynes, scomodando Paul Krugman, dicendo che i pazzi siamo noi, amici dei banchieri, cosa che non è vera per niente, ma difendendo il loro dovere di fare altro deficit e altro debito, io dico, come facciamo a fermarli? Questa è la mia unica obiezione. Loro ti rispondono, zitto tu amico degli evasori, fai pagare gli evasori, poi ne parleremo. E no, dobbiamo fermarli subito, a prescindere dal fatto che ovviamente gli evasori devono pagare. Marcello da Roma, prego Marcello. Buongiorno, come lei sono con la posizione numero 4, mi scusi ma senza mi ritornare. Quindi è nella posizione di Robert Barro, sì. Le faccio una domanda molto naiva, ma perché gli stati devono fare debito? Perché non riescono a spendere entro il 100 raccolto con le tasse per arrivare al 150-160? È molto semplice, perché il debito lo ereditano dagli altri, e siccome gli stati sono stratificati, i governi sono stratificati, chi arriva al potere dice, ma quello è per gli amici di chi c'era prima, io ho gli amici miei, interessi miei, non solo gli amici, non voglio ridurre clientele, basta, però sì, dice, quindi gli amici miei, per finanziare quello ho bisogno di spesa aggiuntiva. Questa è la ragione storica, tutto il resto poi sono, diciamo così, ripittature ideologiche, ma la ragione storica è questa, per chi la vede come me, ripeto, Buchanan, public choice, questa è la ragione storica per cui gli stati fanno debiti, ohimè. Prima di andare in informazioni sulle strade, ancora Marco da Brescia, poi ci sono altre telefonate dopo. Marco, prego. Sì, Giannino, buongiorno e la ringrazio per l'ospitalità. Devo dire che io mi riconosco molto nella sua posizione, cioè quella che bisogna intervenire strutturalmente sulla spesa ordinaria, cosa che mi sembra che questi signori, anche cosiddetti tecnici, si guardino bene dall'affrontare, perché hanno parlato di una spending review di 5 miliardi e con un debito di quasi 2 miliardi, credo che non serva proprio. Sono d'accordo, Marco. Io credo innanzitutto che ci siano delle misure assolutamente da fare, efficaci, e sono assolutamente, secondo me, volte nell'interesse di tutta la nazione. Perché se quello che diceva il signor Ferruccio prima è relativamente giusto, nel senso che è giusto combattere l'evasione fiscale, però è anche giusto che un cittadino che fa il suo mestiere, che fa il suo lavoro correttamente, abbia un'equa ritenuta fiscale sul suo lavoro. Quello che oggi non succede in Italia. Perché se guardiamo dei dati ufficiali, noi oggi in Italia abbiamo che circa il 10% dei contribuenti IRPEF paga più del 50% delle imposte dirette, sì, di paese. E quindi non mi sembra che siamo nella condizione di dire i ricchi non pagano. I ricchi secondo me pagano anche moltissimo, già oggi, quelli che sono diciamo onesti, chiaramente, evidentemente, chi è evasore totale evidentemente non paga nulla. E questo è un discorso. Però dall'altra parte io vorrei avere uno Stato virtuoso che dice benissimo, fino ad oggi abbiamo fatto festa, è ora di cambiare alcune cose. Non è accettabile un paese dove un dipendente su 5 è un dipendente pubblico. Cioè su 17 milioni di lavoratori dipendenti in Italia ne abbiamo 3 milioni e 2 che sono dipendenti pubblici. C'è qualcosa che non funziona, non esiste altro Stato al mondo che ha questo tipo di rapporto. È evidente che visto che la spesa per gli stipendi dei dipendenti pubblici oggi è di 165 miliardi, visto che nessuno di questi qua è stato toccato, se non marginalmente qualcuno dove il fuoco è veramente pannicello caldo, sarebbe opportuno introdurre una norma vera che dice che non esiste un dipendente pubblico che può guadagnare più del 70% dell'appannaggio del Presidente della Repubblica. Dunque, io credo che questi ultimi punti, dipendenti pubblici, l'intangibilità, chi sia e chi no, siano popolarissimi tra i nostri ascoltatori, anche tra quelli che magari sono invece d'accordo sulle due definizioni keynesiane del debito pubblico e dicono la risposta è l'evasione fiscale. Traffico. E come sempre, this is the end of the Doors, che ci ricorda che anche oggi per il momento la improvvisa schiarita di Sol non c'è sulla fiducia dell'euro e sulla sua tenuta, ma noi non è che siamo pessimisti, noi semplicemente ci limiteremo a continuare su questo tasto finché gli euro leader non faranno il cambio di marcia necessario. L'ultima notizia di spread erano 529 punti anche stamattina. Era tornato Luigi da Verona, se non sbaglio, mi dicono qui. Luigi, c'è? Sì, eccoci. Mi senti? Sì, bene. Procedi. Benissimo, dunque io avevo già chiamato l'altra volta per chiederti della BCE come mai mi hai dato una risposta, ma non è corretta secondo me. Vedi, l'individuo aureo che imbroglia e giusta insieme all'aquila dello scudo rosso e dello scudo verde saranno costrette a rivedere il sistema che dura da tanto tempo, è dal 1694, quando è nata la Banca d'Inghilterra. Sì. Ci hanno provato a fermarlo in tanti, Abe, Giovanni F. Gerardo e anche Garfield, che non è il tuo gatto, no? Ma non ci sono riusciti. Succederanno due cose importanti che costringeranno a cambiare tutto il sistema reale. Una è internet e quindi il re è nudo. La seconda è che arriverà una forma per creare energia che non servirà più il fuoco, il petrolio. E quindi ne vedremo delle belle. Ti esiste niente. Vabbè, Luigi, non credo che molti abbiano capito l'eccesso di riferimenti, per così dire, iconici che hai fatto, però vedremo, può essere, è anche l'anno dei Maya, non voglio dire. Giovanni, dalla provincia di Varese, non te la prendo Luigi, non mi permetto di sfottere quello che hai detto, era semplicemente per ridacchiare un po', perché bisogna essere un po' più, io già mi sento fuori dal mondo a citare quattro economisti per dare modelli, perché mi chiedo qua che cosa dicano a chi mi ascolta, però quindi siamo un po' più anche concreti. Giovanni, prego. Sì, buongiorno, la trasmissione è sempre stupenda, è molto interessante. Comunque io sarei con la terza posizione, perché trovo che se lo Stato ha fatto i debiti, se li paga lui, Bucana, lui sicuramente. Le dico, io ho una figlia di 8 anni, abbiamo comprato una casa con un mutuo da 100.000 euro, come dire, ne faccio uno da 200.000 euro perché tanto mia figlia continuerà a pagare il mutuo. Cioè, non è così che si ragiona, sicuramente. Per cui trovo che sia giusto che lo Stato si paghi tutto, questi bei politici che sono, professionisti. Giovanni, io sono senza parole di fronte al fatto che i tecnici fino a questo momento non la pensano affatto così. Io non ho capito come la pensano, ma per il momento di incisivi tagli, come si vede dalle percentuali dei numeri, delle manovre che abbiamo fatto prima, e di abbattamenti attraverso mattoni di Stato e debito pubblico, non se ne vede proprio. In più, segnale, ce ne occuperemo nei prossimi giorni. Avete visto che stiamo andando a una riforma del mercato del lavoro in cui non c'è neanche la versione Ichino, ma si sta andando su quella Nerozzi-Madia, quindi non c'è neanche il superamento né dell'articolo 18 né una riforma integrale degli ammortizzatori. State attenti, perché i tecnici che sembrano portatori di visioni, diciamo così, iper mercatiste e così via, si rivelano, se la cosa dei giornali di stamattina è confermata, tecnici che stanno tra l'ala sinistra e la ultrasinistra della CGIL quanto a riforma del mercato del lavoro. Però magari è sbagliato, sono i giornali di oggi sbagliati ad annunciarlo. A proposito di una lettrice ci ha mandato una lettera a proposito appunto di tassazione e errore di tasse nello Stato in questa manovra, è una cittadina dello Stato dell'Unione Europea, non dell'Eurozona, che ha doppia cittadinanza, è straniera italiana ed è residente in Italia ed è proprietaria di una casa acquistata nel suo paese d'origine parecchi anni prima di avere la residenza in Italia e di acquisire quindi la cittadinanza italiana per matrimonio, contratto con un cittadino italiano. Ci spiega in questa lettera: la casa che ho acquistato nel mio paese d'origine non è il frutto dei miei modesti guadagni che percepisco attualmente in Italia. L'ho comprata con il guadagno del mio lavoro svolto nel mio paese d'origine quando non ero residente in Italia e con il sostegno dei miei genitori non italiani, sempre residenti nel mio paese d'origine, quando all'epoca neanche sapevo, immaginavo che avrei preso residenza in Italia e poi incontrato mio marito, mi sarei innamorata e avrei col matrimonio sarei divenuta cittadina italiana. Ora invece, con la tassazione delle case all'estero con aliquota differenziata introdotta dalla manovra del governo Monti, io mi trovo di fronte a una tassa che secondo me è ingiusta e arbitraria e antieuropea, perché la tassa non può riferirsi ai mobili acquistati prima di acquisire la residenza in Italia e la cittadinanza italiana, quando anche sia giusta l'aliquota differenziata per quegli immobili a prescindere dal regime di doppia tassazione. Ecco, questa lettera pone un problema segnalatoci da tanti ascoltatori su molti margini di iniquità delle misure della manovra ipertassaiola annunciata, e da questo punto di vista quindi noi continueremo a dare loro voce. Sentiamo ancora rapidissimamente, 30 secondi, Bruno, la provincia di Milano. Prego Bruno. Sì, buongiorno, salve. Ma rapidissimamente sono più a favore della quarta definizione, più che altro perché mi sembra più contestuale e attuale. Probabilmente le quattro sono anche l'esemplificazione di come si è evoluto l'idea di debito pubblico. Volevo chiedere una cosa velocemente, se riesce. Mia moglie, che bazzica la Francia, tornata da Parigi, mi ha mostrato un video che si intitola su YouTube Le raison de la dette publique. In cui, perché stiamo andando alla conclusione? Che lega le ragioni del debito pubblico con la legge 123, che vieta allo Stato di produrre denaro, di stampare denaro oltre una certa soglia, ma non vieta alle banche di creare... La fermo, questa è la tesi che tutti mi rimproverano di non pagare mai, la riserva frazionaria, il signoraggio bancario e tutto per le banche, così via, ne parliamo un'altra volta. Guardate, io non sono per niente convinto di questo, questa è la tesi che vuole rimettere tutto nelle mani dello Stato e avere banchieri centrali serviti alla politica. Punto, fine, domani!